L'idea che alcune scuole nelle regioni nelle quali l'apertura è prevista per il 14 possano partire dopo viene esclusa categoricamente dal presidente del Consiglio Conte, ma molti presidi restano perplessi. Pesano l'assenza di spazi, l'assenza di banchi, l'assenza di docenti. Non ci resterà che vedere cosa accadrà lunedì prossimo. Lunedì che poi aprirà la settimana nella quale si voterà per le regionali, la cui campagna elettorale ieri è stata segnata dall'aggressione a Matteo Salvini, e il referendum. In breve, due appuntamenti cruciali in 7 giorni, per la politica e per il governo. La cronaca ci riporta sull'assassinio di Willy Monteiro Duarte, con gli arrestati che continuano a negare, con i testimoni che continuano a confermare che sono stati loro. E poi ci sono le cronache del virus e della gestione del virus. Mentre accusiamo il colpo per lo stop temporaneo alla sperimentazione del vaccino di Oxford, Donald Trump riceve quello delle rivelazioni contenute nel libro di Bob Woodward, nel quale lo stesso presidente americano ammette, e lo fa con la sua viva voce, che il Covid è molto pericoloso, ma pubblicamente ne ha ridotto la portata per evitare di scatenare il panico. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare. Simone Spezia. Sono le 6, 32 minuti e 30 secondi, è giovedì 10 settembre, care ascoltatrici, cari ascoltatori, buongiorno, eccoci, con Peter Bescapè in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Giorgio De Luca, Gloria Guerrera, il resto della nostra redazione, e Margherita Ina e Francesco Ciaraffo, i nostri autori, ci siamo. Ci siamo soprattutto con voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, per le vostre voci. E anche per gli sms e messaggi su WhatsApp scritti, siamo anche in diretta su Facebook, ci trovate su Instagram, su Twitter, come sempre, i nostri canali social se volete farvi sentire. Tra le altre cose... le misure anti-Covid. Il Regno Unito da lunedì nel Regno Unito varrà la regola del 6. Che vuol dire? Saranno vietati assembramenti superiori a 6 persone, qualsiasi cosa voglia dire, compresi i bambini. Pena, multe salate e persino l'arresto in caso di resistenza. Io non so questa regola del 6 da dove esce fuori. Altri temi, un tema del quale sicuramente si dibatterà ampiamente nella giornata di oggi, lo trovate molto sui giornali, è questo, è quello che è accaduto con gli Oscar. L'Academy ha richiesto nuovi standard con minoranze etniche protagoniste, oppure nel cast il 30% di donne LGBT o disabili, altrimenti non puoi candidarlo a miglior film. Potete immaginare cosa sta scatenando questo in merito al tema, per esempio, della libertà artistica. È un po' un paradosso se pensate che l'attore più pagato di Hollywood è in realtà una persona di origini samoane, che è Dwayne Johnson, The Rock. E dove ci sono, tra gli attori più pagati di Hollywood, ci sono molti appartenenti appunto a minoranze. Poche donne a dire il vero. Però per dire, per esempio Will Smith, tanto per dare un'idea, Jackie Chan... E non solo. Ditemi se volete quello che pensate anche su questo, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci. C'è un po' di confusione su questa storia della scuola, eh? Non poca confusione su questa storia della scuola. su tanti fronti, quello dei banchi, quello appunto dei docenti. Adesso vi farò sentire qualche voce, quella per esempio del Presidente del Consiglio Conte, quelle della Ministra Azzolina. Però pensate che da in Piemonte le famiglie, ha deciso il governatore Cirio ieri, avranno l'obbligo di segnare sul diario o su appositi moduli la temperatura dei figli misurata a casa. E vabbè, ognuno si organizza come può. Sentiamo Conte sulla scuola, va. L'anno scolastico ricomincerà e ricomincerà regolarmente a partire dal 14 settembre, anche se alcune regioni, nella loro discrezionalità e autonomia, hanno scelto di posticipare questa riapertura. Così Giuseppe Conte. Che dice? Arriveranno mascherine gratuite per tutti. Abbiamo predisposto la consegna di 11 e la distribuzione di 11 milioni di mascherine chirurgiche gratuite a tutto il personale della scuola e a tutte le studentesse e gli studenti. Non vogliamo che ci siano discriminazioni sociali. Tutti avranno a disposizione una mascherina chirurgica garantita. Imperativo riaprire la scuola, dice la ministra. È stato giusto chiudere le scuole a maggio e che è necessario e doveroso riaprirle adesso. Oggi siamo più preparati, il quadro è diverso ed è un imperativo morale restituire agli studenti, alle studentesse, alle famiglie un pezzo di normalità, la scuola. Altra cosa che bisognerà coprirsi, dice la ministra dei trasporti De Micheli, perché sugli scuolabus d'inverno ci saranno i finestrini aperti, via. Ci sarà la necessità di rimanere coperti sugli scuolabus perché occorrerà tenere aperto il più possibile i finestrini, il distanziamento in salita e in discesa, per cui quando i bambini saliranno bisognerà aspettare che il primo bambino si sia seduto per poi far salire il secondo bambino, quindi una procedura un po' lenta ma una procedura di sicurezza. Mi scrive un ascoltatore: nella scuola dove lavoro sono ad oggi solo 600 mascherine disponibili, utili per il 60% degli studenti di un giorno solo. Se avete anche storia su questo, se ci volete raccontare nelle vostre scuole, nelle scuole dei vostri figli, oppure nelle scuole nelle quali lavorate, come stanno andando le cose, beh, siamo qua, perché è la famosa settimana decisiva questa per la riapertura delle scuole. Cara Agnese Pini, direttrice della Nazione, buongiorno, come stai? Buongiorno, bene, bene, grazie. Bene. Siamo ancora qua e siamo ancora a ragionare su quella che è la grande prova del governo. Come si diceva, in una settimana importante, perché la settimana che si apre lunedì parte con la riapertura delle scuole e si conclude con il voto per le regionali, le amministrative e il referendum. Ricordiamo che ci sono anche molti comuni che vanno al voto, tra le altre cose. Ed è un po' l'elemento che molti identificano come il punto di svolta, quantomeno per questo autunno, della stabilità del governo. Che dici? Che sarà sicuramente a partire dal 22 settembre, anzi dal 21 sera, il momento del bilancio serio del governo. Tra l'altro cade anche temporalmente a poco più di un anno dalla sua formazione, del 5 settembre 2019. Ci sarà un inevitabile resa dei conti interni, comunque vadano le cose, perché appunto il rientro a scuola è, non per fare un gioco di parole, ma davvero il banco di prova, no? Di questa maggioranza, anche rispetto ai mesi del post lockdown, con tutti i problemi che abbiamo visto ci sono stati in questi mesi e che poi sono problemi un po' legati al coronavirus, un po' problemi endemici che la scuola si porta avanti da anni, anzi da decenni. Infatti forse l'unica cosa buona del Covid è che ci ha costretto a fare i conti con quei problemi, a partire dall'assenza di insegnanti, dalle supplentiti che ci sono negli istituti, in maniera più energica. Poi vedremo se li risolveremo o no, perché al momento questi problemi per esempio sono ancora lungi dall'essere risolti, che ne abbia detto anche ieri Conte. E poi c'è ovviamente la questione regionale, che peserà da un lato molto sul Partito Democratico e sulla tenuta della sua leadership, a seconda di come finiranno i famosi 5-2, 6-0, insomma, vedremo. Dall'altro però chiaramente avranno delle ripercussioni anche sull'alleanza giallorossa, che è stata uno dei temi più dibattuti nella campagna elettorale, anche proprio come visione politica di questo governo, cioè deve essere soltanto un ticket di 5 Stelle democratici o deve diventare, come auspicato da vari leader di entrambe le parti, un'alleanza politica più strutturale, quindi basata anche su una visione di insieme, non solo su dei punti programmatici. Ecco, io credo che a seconda di come qui andranno soprattutto le regionali, sì, e degli equilibri, dei contrappesi che ci saranno, no? In particolare in quelle regioni dove 5 Stelle, la maggior parte dove 5 Stelle vanno da soli, no? E presentano un loro candidato, sì, certamente. Esatto. Pensiamo alla Puglia, tanto per fare un... No, la Puglia, e anche la mia Toscana. Sì. E anche, insomma, la tua Toscana, no? Anche la tua Toscana, sì. Dove 5 Stelle vanno con il proprio candidato e dove sono in realtà i voti dei 5 Stelle, infatti la maggioranza degli appelli al voto che ci sono in queste ore dimostra proprio che la preoccupazione è questa. C'è l'appello al voto utile, voto utile. No, se non volete votare per il candidato di Salvini, Fratelli d'Italia o quello che è, votate per quello del Partito Democratico, che ha più speranze di vincere rispetto a quello dei 5 Stelle. Vedremo come andranno queste regionali, sicuramente uno spunto di riflessione. Prima di arrivare appunto proprio alla tua Toscana, cara Agnese Pini, all'aggressione avuta da Salvini, fatemi fare un passaggio intermedio. E il passaggio intermedio ha a che fare con l'aggressione e l'uccisione di Willy Monteiro Duarte. Molto se ne è parlato in queste ore con una serie di analisi per modo di dire, riflessioni mezze sociologiche, mezze politiche anche, chi l'ha visto, c'è tutta una discussione, tutta una serie di insulti ricevuti da Chiara Ferragni perché ha scritto che è frutto della cultura fascista questa aggressione. C'è anche per esempio padre Alex Zanotelli. Ma è anche il frutto amaro, dobbiamo riconoscerlo, di tutto, direi, una predicazione, uso fra virgolette questo termine, una predicazione che ci è venuta tramite la televisione. Ricordo i 30 anni di televisione berlusconiana, stati devastanti, ma soprattutto dalla predicazione di un Salvini, di una Meloni, che hanno seminato odio in questo paese. Ma sono un po' perplesso, Intanto Salvini ieri è stato aggredito appunto a Pontassieve. Sentiamo il passaggio d'audio, Peter. Aspetta, ma poi io ti maledico! Una donna di origine congolese, perfettamente regolare in Italia, che lavora per il comune di Pontassieve, che lo aggredisce, gli strappa il pezzo di una camicia, gli strappa due rosari, perché Salvini gira con due rosari, e appunto lo aggredisce così Salvini. E poi avanti, ci tenevo a dirlo perché in tanti mi state scrivendo: ma stai bene? Non mi ha impaurito, mi ha solo infastidito, mi ha solo così stupito in negativo. Che dici, Agnese? Che dici? Dicevamo ieri con una battuta in redazione che la vera notizia è che Salvini ha appunto due rosari e non solo uno. Mi ha un po' colpito questo aspetto. Dico che è un gesto ovviamente brutto in una campagna elettorale, quella toscana, dove però sostanzialmente i toni non sono mai stati eccessivamente fuori controllo, no? È stata tutta una campagna bizzarra, intanto una campagna elettorale estiva, una campagna elettorale della pandemia, quindi con modalità e caratteristiche tutte particolari, in cui la voce del dissenso a Salvini, tolto il caso di ieri, che lo trovo appunto un caso limite, che io non prenderei però paradigma, ecco, di una campagna elettorale, sì, assolutamente, appunto dicevo, tolto il caso di ieri, la voce del dissenso normale, ecco, a Salvini e alla Lega nella rossa toscana è stato sempre abbastanza equilibrato. È stata temperata, Agnese, è stata temperata anche, come abbiamo sottolineato più di una volta, anche la campagna elettorale di Salvini, per dire, una storia come quella del citofono, che ricorderanno gli ascoltatori, nella campagna elettorale Emiliano Romagnola non c'è stata, ha mantenuto un profilo un po' più basso Salvini oggettivamente in questa campagna elettorale. Intravedendo i rischi forse. Ha capitalizzato gli errori emiliani, cioè ha cambiato a livello strategico completamente la modalità comunicativa. In Toscana ha parlato di contenuti, è stato sui territori, toni bassi, nessuna stravaganza, non solo non c'è stato il citofono, ma pochi giorni fa è scoppiato un piccolo giallo perché il suo staff aveva annunciato un ipotetico volo col paracadute sui cieli di Aretto, che doveva tenersi proprio oggi, e questa in effetti sembrava proprio una scena, sì, da campagna elettorale, un po', sì, alla un Salvini po vecchia maniera, un, no? Po il corpo del leader che si butta da 4.500 metri, e Salvini ci ha ripensato a un certo punto, ha detto no, mi occupo, devo andare tra la gente, devo lavorare, niente show. Beh, e questo è proprio emblematico rispetto al fatto che anche il suo staff comunicativo, i sondaggi gli suggeriscono che, insomma, in che meglio tenere il profilo basso, traffico. Esatto. Cosa ancora? Sicuramente c'è tutta la preoccupazione che emerge anche da qualche giornale oggi per lo stop momentaneo, ovviamente, al vaccino. È uno stop momentaneo, ne abbiamo parlato ieri con il professor Crisanti, che era ospite proprio a quest'ora, gli ascoltatori che c'erano lo sanno, il quale ci ha detto: guardate, è una cosa abbastanza normale. La realtà è che illudere le persone sul fatto che il vaccino possa arrivare presto è, sostanzialmente, ha detto Crisanti, senza poi dirlo così brutalmente, così esplicitamente, è un errore della politica. Perché non è possibile. Il vaccino, ci ha detto ieri Crisanti, il vaccino con il quale, il vaccino che è stato sviluppato in maniera più rapida, ha impiegato 3 anni e mezzo. Ora è chiaro che qua c'è uno sforzo corale per trovare il vaccino a Covid-19, però i tempi ovviamente sono un po' più lunghi. È una reazione avversa, quella che si è verificata su uno dei volontari che sono stati sottoposti al test, che ha imposto uno stop momentaneo. Intanto, ieri abbiamo parlato anche della possibilità che si passi da 14 a 7 giorni di quarantena, e lo stesso Crisanti ci ha detto: beh, tutto sommato si può fare, si sappia che non hai una sicurezza del 100%, però in genere l'incubazione del virus è tra i 5 e i 6 giorni, questo è quello che si è verificato. A questo punto il viceministro Sileri dice: forse la portiamo a 10 giorni. Già da adesso potrebbe essere auspicabile 10 giorni dai lavori scientifici che ho letto, diciamo, per essere conservativi, magari tendendo verso i 7 giorni, però aspettiamo qualche altra evidenza scientifica per mettere in sicurezza questo dato che sembra emergere. Poi la giornata di ieri è stata anche la giornata nella quale ampiamente si è discusso di Recovery Fund e dei piani da presentare all'Europa per il piano, per i soldi europei. Oggi ne parleremo, perché la persona che presiede il comitato che deve analizzare questi progetti è il ministro degli affari europei Enzo Amendola e sarà nostro ospite. Ci faremo raccontare qualcosa in più su come il governo intende spenderli, perché l'idea è che vadano su alcune direttrici fondamentali. Conte. Sono stati annunciati ufficialmente i tempi dalla Commissione europea. Si dilatano questi tempi. Quindi ci viene chiesto di presentare il 15 ottobre non la versione completa, è loro che ci chiedono questo, ma ci chiedono di presentare delle linee guida che contengano obiettivi strategici, cosa che abbiamo già fatto peraltro essendo molto avvantaggiati nel lavoro. Attenzione, lo dico agli ascoltatori che adesso ci stanno scrivendo sul discorso che facevamo prima sul voto utile. Guardate che qua non è arrivato nessun suggerimento al voto da una parte o dall'altra in Toscana. Chiariamolo subito. Abbiamo semplicemente detto che da più parti, nei luoghi nei quali c'è il candidato del Movimento 5 Stelle, che si candida anche lui, il Partito Democratico e il centro-sinistra sta invitando al voto utile, cioè votate il PD invece che votare il candidato del Movimento 5 Stelle perché è un voto perso. E quella è l'operazione che stanno facendo. Abbiamo descritto un'operazione. Agnese, mamma mia, è una fatica qua certe volte. Non, ci mancherebbe non, che fosse arrivato. Ma figuriamoci se c'è un invito al voto, ma votate quello che vi pare. Volete votare quello del 5 Stelle, volete votare quello di centro-sinistra, volete votare quello di centrodestra, volete votare quello del micro partito del 2%, ma fate come vi pare, ma figuriamoci cosa ci interessa a noi di che cosa votate, non figuriamoci se è un invito al voto. Stavamo semplicemente spiegando un meccanismo abbastanza classico che si verifica in tutte le elezioni amministrative, politiche, di qualsiasi tipo. È il grande tema in realtà, Agnese, poi per andare un po' al concreto, è esattamente il recovery plan, e su questo si misurerà molta della credibilità di questo governo, molta della capacità di questo governo di avere una progettualità forte, ed è quello che ci richiede l'Europa. Sì, anche di mostrare come la sappiamo organizzare, no, questa progettualità. Questi progetti poi non è che mancano, mancheranno. C'è però un tema su come finalizzarli al meglio, cioè su come sceglierli, insomma non disperdiamo questi 209 miliardi che sono tantissimi ma che appunto rischiano di essere utilizzati male, e non disperdiamoli quindi sull'altare delle tante piccole micro esigenze che di chi vorrà avere la sua fetta, portare a casa un risultato particolare nel rispetto al risultato importante collettivo. Quindi ecco, l'organizzazione della progettualità come sarà, come si potrà renderla efficiente partendo dal basso, come sembra adesso la strategia che si vuole utilizzare, quindi con una serie di proposte da parte dei singoli ministeri, no, che poi dovranno essere vagliate, riordinate. Questo è sicuramente una delle strade che si vogliono percorrere con questo sistema che si chiama bottom up, appunto a partenza dal basso. Ma i critici rispetto a questo sistema dicono invece: perché non imporre una regia forte dall'altra, da parte della Presidenza del Consiglio, su appunto la gestione di un patrimonio gigantesco, ma che nel nostro paese in particolare rischia un po' di disperdere. Sì, il rischio del famoso assalto alla diligenza in stile finanziaria, finanziaria è molto forte. Oggettivamente il vantaggio, qua molte persone odiano il cosiddetto vincolo esterno, però il vantaggio è che l'Europa questa cosa non la consentirà, perché ci devi mettere i soldi tuoi e poi ricevi rimborsi se quei piani vengono fatti come Dio comanda, detta molto semplicemente. E quindi quei soldi l'Europa non la consentirà, ma noi rischiamo di provarci lo stesso a farlo. Beh, sì. conoscendo il paese esatto. qualche rischio effettivamente c'è. Cosa ancora? Poco, perché sono le 6:55 minuti 35 secondi e dobbiamo chiudere. Grazie Agnese Pini, direttrice Grazie. Della Nazione, come sempre. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp audio, le vostre voci, SMS, WhatsApp, la pagina Facebook dalla quale andiamo in diretta video. Ci siamo. A tra poco per la rassegna stampa dopo GR24.